I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Nomi nuovi, ma problemi antichi. Potremmo così sintetizzare il futuro a breve del Monte dei Paschi di Siena dopo che ieri, a borsa chiusa, si è appreso che il numero uno, Fabrizio Viola, ha rinunciato all'incarico da amministratore delegato. Non dimentichiamo che Fabrizio Viola ha preso la guida del Monte dei Paschi nel 2012 dopo la disastrosa gestione Mussari. Viola, assieme all'allora presidente Alessandro Profumo, ottiene il prestito, i famosi Tremonti Bond, da 4 miliardi di euro, poi trasformatisi in Monti Bond. Nel giugno 2014 la banca vara poi un aumento di capitale da altri 5 miliardi di euro, che non le permette però di superare gli stress test di quell'ottobre. E i nuovi guai, la nuova accelerazione sul Monte dei Paschi arriva proprio lo scorso luglio, quando si viene a sapere della lettera inviata al Monte dei Paschi dalla Banca Centrale Europea, in cui si chiede di aumentare in maniera significativa la dismissione, la vendita delle sofferenze bancarie, ossia dei crediti non più esigibili. Quel giorno riporta il Monte dei Paschi, ed è cronaca recente, alla strada obbligata di un nuovo aumento di capitale. Ed è proprio questo aumento di capitale che ha pesato sulla scelta di Fabrizio Viola. Adesso serve un successore, serve in tempi rapidi, non importa il nome, anche se già circola quello di Marco Morelli, numero uno di Merrill Lynch. E se il nuovo successore di Viola non riuscirà in tempi brevissimi a trovare dei partecipanti all'aumento di capitale, per il Monte dei Paschi rischia di profilarsi un'unica soluzione. Si scrive soluzione di sistema, si legge cassa, depositi e prestiti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. I consumi in generale vanno abbastanza bene, sono cresciuti in un anno dell'1,1% e pesano molto gli acquisti di auto e di prodotti di elettronica, ma non si può ancora dire che sia in atto una vera e propria ripresa dei consumi, soprattutto quelli di tutti i giorni, e purtroppo questo è il dato che per l'economia reale è più importante. Lo ha certificato un allarmante rapporto delle Coop che ha utilizzato dati Nielsen. Nel primo semestre del 2016 le vendite nella grande distribuzione sono calate dello 0,3%, sia per i discount sia per gli ipermercati. Scivolano in particolare i prodotti non food, non alimentari, con meno 2,4%, i prodotti per la casa e per la persona con meno 1,2%, e anche gli alimentari, pur andando un po' meglio, segnano una flessione dello 0,1%. E quindi è anche in questo rallentamento una delle ragioni del calo del PIL di questa Italia, che fatica a uscire dall'orizzonte ristretto degli 0,. Il rapporto delle Coop segnala che pesa l'erosione del risparmio e dei redditi delle famiglie registrato in questi anni di crisi, ma lo studio dà conto anche di una pericolosa tendenza demografica che si tende a sottovalutare. Nel secondo paese più vecchio del mondo, come è l'Italia, la ricchezza finanziaria è concentrata nel portafoglio degli over 65, che possono contare su 154.000 euro medi contro i 18.000 degli under 35. È chiaro che questo tipo di diseguaglianza generazionale si riverbera anche sui consumi, che tra l'altro scontano anche un'altra grande rivoluzione silenziosa. La spesa per alimentari è calata del 12% in un decennio. Si sono tagliati i consumi di carni rosse, pasta, salumi, latticini, uova e così via, a fronte di più acquisti di frutta, verdura, pesce, prodotti bio e quant'altro. In grande crescita anche il ricorso al cosiddetto altro cibo, beveroni, integratori e pillole generano un giro d'affari di 2,5 miliardi di euro in Italia, con un salto del 7,7% rispetto all'anno precedente. Insomma, è una rivoluzione che però purtroppo ancora non ha impatti sulla crescita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.